Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Virginia Raggi per falso e l'archiviazione per l'abuso d'ufficio. Piccoli comuni, via libera alla legge, fondi e servizi per evitare lo spopolamento. Fincantieri, iniziale balzo in borsa in apertura dopo l'accordo con la Francia. Con Parigi resta aperta la partita Team Vivendi. Rifiuti per produrre il cemento, sequestrata la centrale Enel di Brindisi e la Cementir di Taranto. Morti sospette di 30 operai, sotto sequestro invece l'ex stabilimento Marlane di Praia Mare. Seregno, dopo l'inchiesta sull'Andrangheta, si dimettono i consiglieri leghisti e cade la giunta. In Catalogna nuova protesta degli studenti e sale la tensione, domenica il referendum per l'indipendenza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, se volete commentare c'è anche la nostra diretta video su Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno e se volete potete scrivere anche là durante la diretta. Una giornata, come avrete già sentito dai titoli, piuttosto intensa, con notizie che continuano ad accadere. Cavallarsi, iniziamo da Roma, dalle richieste della Procura per Virginia Raggi. Dopo mesi di indagini, la Procura di Roma chiede di mandare a processo Virginia Raggi per l'accusa di falso nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. Archiviata invece l'altra accusa mossa alla prima cittadina 5 Stelle, quella di abuso d'ufficio. Il falso le è contestato per la nomina alla direzione turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele Marra, il suo ex braccio destro ai tempi capo del personale del Campidoglio. Raggi è accusata di aver mentito all'autorità anticorruzione alla quale aveva dichiarato di aver deciso quella nomina in autonomia. L'abuso d'ufficio riguardava invece la promozione di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica. Apprendo con soddisfazione che dopo mesi di fango mediatico la procura ha deciso di far cadere le accuse di abuso d'ufficio. Sono convinta che presto sarà fatta chiarezza anche su quella di falso, commenta su Facebook la prima cittadina. A dirsi soddisfatto è anche Beppe Grillo, fanno sapere i vertici del Movimento 5 Stelle. L'accusa di abuso d'ufficio nel frattempo cade anche per Ignazio Marino e Gianni Alemanno, anche loro indagati per una serie di nomine fatte durante i loro mandati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Al via oggi la legge sui piccoli comuni. Sentiamo. Combattere il progressivo spopolamento dei borghi, è questo lo scopo della legge approvata in via definitiva dal Senato per i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Un patrimonio italiano in via di estinzione, 6.000 centri, di cui 3.000 quasi praticamente disabitati. Il provvedimento prevede un fondo per lo sviluppo strutturale di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Si potranno riqualificare centri storici, istituire centri multifunzionali per i servizi, promuovere mercati di prodotti locali, puntare alla banda ultralarga. Il testo prevede inoltre la distribuzione facilitata dei farmaci, la possibilità che le farmacie eroghino altri servizi, finanzia il rimboschimento e il contrasto del dissesto idrogeologico con la stipula di convenzioni e contratti di appalti con imprenditori agricolo-forestali del territorio. Secondo l'ANCI, i piccoli comuni tutelati dalla nuova legge rappresentano il 69,9% di quelli italiani, occupano il 50% del territorio nazionale e ospitano 11 milioni di abitanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ha ricevuto intanto il via libera ieri il nuovo codice antimafia. Molte perplessità sono state sollevate sull'equiparazione tra corrotti e mafiosi dal lato delle misure, per esempio, di confisca dei beni. Sentiamo. Si tratta del terzo tassello sul fronte del diritto penale che diventa legge dopo la riforma del processo e della prescrizione e il reato di tortura. Il nuovo codice antimafia è legge e tra le novità introduce di fatto una sorta di equiparazione tra mafioso e corrotto, con alcune novità: sequestro dei beni per i corrotti come per i mafiosi, misure di prevenzione come la confisca estesa agli indiziati e sospettati di reati contro la PA. Arriva anche il nuovo controllo giudiziario per le imprese quando esiste il rischio concreto di infiltrazione da parte del crimine organizzato che ne condiziona l'attività. Un controllo da un anno a due anni. Sono stati mescolati reati e provvedimenti diversi tra loro, spiega Beniamino Migliucci, presidente del Consiglio delle Camere Penali. È stata fatta un'improvvida estensione tra reati e contesti di illecito che nulla hanno a che vedere con il fenomeno mafioso, ampliando l'applicazione di questa normativa di prevenzione, che è una normativa che ha scarse garanzie. Questa equiparazione di fatto tra corrotto e mafioso ha fatto scoppiare polemiche che hanno portato all'approvazione di un ordine del giorno. Impegna il governo a valutare, dopo un monitoraggio sulla prima applicazione della legge, la possibilità di rivedere proprio questo punto del codice antimafia. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Dopo l'inchiesta sull''ndrangheta si dimette l'intero gruppo leghista al comune di Seregno e cade anche la giunta. Dimissioni di massa di consiglieri e assessori. Alla fine dunque questa mattina la giunta comunale di Seregno cade sotto i colpi dell'inchiesta sulle infiltrazioni di 'ndrangheta nel mondo della politica e dell'imprenditoria brianzola. Il primo a dimettersi ieri sera è stato Giacinto Mariani, vice sindaco leghista, indagato per abuso d'ufficio, sottoposto a misura interdittiva. L'annuncio nel corso di un incontro politico ad Albiate, nel quale era presente anche il leader del Carroccio Salvini. 24 anni che ho titolo. Sono seduto in consiglio comunale, ovviamente la Lega senza va contro la mafia e contro la 'ndrangheta. Il gruppo consigliare Lega Nord di Seregno, 8 consiglieri in tutto, questa mattina ha firmato le proprie dimissioni. Subito dopo sono arrivate quelle del gruppo consigliare di Forza Italia. Agli arresti sono finiti il sindaco Edoardo Mazza, accusato di corruzione per aver favorito gli affari di un noto costruttore ritenuto legato alle cosche, che poteva contare anche su una talpa in procura, interessato in particolare alla costruzione di un centro commerciale in cambio di voti. In manette anche il consigliere Stefano Gatti. La decisione anche della minoranza di dimettersi sarebbe stata presa invece per evitare l'eventuale commissariamento del comune ipotizzato dal prefetto di Monza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata sequestrata la centrale Enel di Brindisi. Nuova inchiesta della Procura di Lecce per violazioni ambientali in Puglia. Stavolta nel mirino finiscono 3 aziende importanti: la centrale Enel Federico II di Brindisi, la Cementir di Taranto e il Parco Loppa dell'Ilva di Taranto. Traffico di rifiuti e la contestazione che muove a 31 indagati, dirigenti delle varie società, il GIP di Lecce, mentre la Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro con facoltà d'uso per 60 giorni i 3 complessi al centro dell'indagine. Per tutti l'obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di rifiuti e alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. A carico di Enel Produzione inoltre eseguito anche un sequestro di 500 milioni per ingiusto profitto. Cosa contesta il giudice? Enel nella centrale di Brindisi ha classificato le ceneri come derivanti solo dalla combustione del carbone, mentre invece le ceneri erano derivate da combustibili e quindi pericolose. Enel ha così risparmiato sui costi di smaltimento dei rifiuti. Cementir a sua volta acquistava da Enel e Ilva l'oppa di Altoforno che non era conforme. In particolare il siderurgico dava a Cementir l'oppa che non era stata preventivamente separata da altri scarti e rifiuti. Enel Produzione dichiara intanto che nel corso delle indagini potrà dimostrare la correttezza dei propri processi produttivi. Domenico Palmiotti, Radio 24 del Sole 24 Ore, Lecce. È stato sequestrato uno stabilimento invece per delle morti sospette. C'è una battaglia della Procura di Paola nel Cosentino che va avanti da anni. Oggi i carabinieri del NOE di Catanzaro hanno sequestrato lo stabilimento della Marzotto Marlane a Praia a Mare, dismesso nel 2004. La Procura di Paola ha infatti aperto una nuova inchiesta sul decesso di decine di operai, provocato, secondo l'accusa, dalle esalazioni tossiche sprigionate dai materiali usati nella fabbrica tessile. 7 gli indagati. Proprio 3 giorni fa una precedente inchiesta si è conclusa con 12 assoluzioni in appello, per casi antecedenti a quelli presi adesso in esame. Gli ex dirigenti dello stabilimento, ma anche l'imprenditore Pietro Marzotto e un ex sindaco di Praia a Mare, erano chiamati a rispondere di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime e disastro ambientale. I casi presi in esame riguardavano più di 150 dipendenti, tutti ammalatisi negli anni e molti deceduti. Ora arriva la nuova inchiesta. È in corso l'incidente probatorio nel Tribunale di Paola. Nei prossimi giorni ci sarà il conferimento degli incarichi ai periti per nuovi rilievi nello stabilimento. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza. La vicenda Fincantieri all'indomani del vertice di ieri tra Italia e Francia che, lo ricordiamo, si è concluso con un accordo per il quale l'accordo sarà 50% e 50%, Fincantieri avrà per 12 anni sostanzialmente il controllo di STX con la forma di una sorta di prestito. Scrive oggi l'amministratore delegato della Fincantieri Giuseppe Bono: è un gruppo coeso e ormai grande fra i grandi. In mattinata c'è stato un balzo di Fincantieri in borsa, adesso perde circa il 5%. Resta in piedi la partita, su un'altra partita che coinvolge Italia e Francia, quella su Vivendi e Tim, per la quale oggi ci sono passaggi importanti. Arriverà oggi il primo verdetto del governo sull'applicazione dei poteri speciali, il cosiddetto Golden Power, per la vicenda Tim Vivendi. Nel pomeriggio dovrebbe infatti riunirsi il gruppo di tecnici chiamato a valutare se i francesi avrebbero dovuto notificare o meno la presa di controllo sull'azienda italiana. L'orientamento del gruppo governativo è che ci sia stato un difetto di comunicazione da parte di Vivendi, ma per chiudere il cerchio i tecnici di Palazzo Chigi dovranno attendere le valutazioni finali dei ministeri interessati, che hanno sensibilità diverse sul dossier, divisi tra coloro che propendono per un cartellino rosso pesante, chi invece spinge per una soluzione soft. Difficile fare previsioni al momento, ma se prevarrà la linea del gruppo dovrebbe scattare la contestazione della mancata notifica per Vivendi e l'avvio di un iter di almeno 90 giorni, al termine dei quali il gruppo potrebbe essere multato. I giochi sono aperti e la decisione dei tecnici arriva in una giornata intensa. Oggi pomeriggio è previsto un consiglio dei ministri che non ha il caso all'ordine del giorno, ma non è escluso che venga esaminato. E tra qualche ora si riunirà anche il CDA di Tim, chiamato a decidere il nome del nuovo amministratore delegato. Celestina Dominelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero, adesso in Catalogna, dove è iniziata da poco una nuova manifestazione studentesca. Il punto di giornata con Mario Magarò. Mario, buongiorno, vai. Buongiorno dalla piazza dell'Università di Barcellona, situata nel cuore del capoluogo catalano. Qui per l'appunto è iniziata da poco la marcia studentesca organizzata dalla piattaforma Universitari per la Repubblica, costituita per l'appunto da studenti appartenenti a tutte le università, a tutti gli Atenei della Catalogna. La marcia, iniziata da poco, attraverserà una buona parte del centro di Barcellona e segna anche l'inizio di uno sciopero di 48 ore, convocato appunto agli studenti universitari, che coinvolgerà tutti gli Atenei della Catalogna. Fino ad ora la marcia è assolutamente pacifica, direi festosa, molte bandiere indipendentiste catalane, molti cori e cartelli a favore dell'indipendenza e a sostegno del referendum del 1 ottobre. Importante sottolineare che parallelamente si sta svolgendo, presso la sede del governo catalano, la riunione della giunta di sicurezza del governo catalano, convocata dal presidente Puigdemont, che ha ad oggetto la sicurezza, il tema sicurezza in occasione del referendum. Il risultato di questa riunione sarà importante, perché dovrà in qualche modo cercare di dirimere il malessere, il conflitto in corso tra la polizia catalana e gli organi centrali. Pere Soler, il direttore della polizia catalana, ha detto chiaramente ieri, ha manifestato chiaramente ieri via Twitter il malessere della polizia catalana nel dover sottostare agli ordini della Procura della Repubblica di Barcellona, che ha disposto chiaramente, dato mandato di requisire tutto il materiale relativo all'organizzazione del referendum. Da sottolineare che questa mattina il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha rivolto un appello a 27 sindaci di altre città europee per supportare la sua richiesta di intercedere presso la Commissione europea in modo tale da intervenire e da favorire un dialogo tra le due parti in causa, ovvero Madrid e Barcellona. Ti ringrazio, grazie a Mario Magarò per questo aggiornamento. Noi, prima di chiudere, andare a sentire cosa succede sulle strade, abbiamo in studio con noi Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Simone, ben ritrovato. Per parlare di sport, di calcio in particolare, della serata di ieri di Champions, di quello che ci attende per la giornata sportiva di oggi, che ovviamente non si compone di solo calcio, Dario. No, no, infatti alle 16 appuntamento, tra l'altro, come giustamente ricordavi, con l'Italia del volley femminile impegnata nei quarti di finale dei campionati europei contro l'Olanda, squadra tabù che non battiamo, vado a memoria, mi pare dal 2011, quindi sarebbe anche il caso di invertire la tendenza. La tendenza l'ha sicuramente invertita Gonzalo Higuaín, perché rischiava la seconda partita in panchina, e dalla panchina ieri è partito a Torino contro l'Olympiacos, ma poi appena entrato al 69esimo, passati giusto 9 minuti, il Pipita su assist di Alexandro in un'azione ben ispirata da Mandžukić ha trovato subito il gol che ha permesso alla Juventus di far saltare il bunker dei greci e di conquistare di fatto quella vittoria poi arrotondata dal 2-0 di Mandžukić, che rilancia i bianconeri per la qualificazione. Stessa cosa per la Roma, con altrettanta fatica, forse anche di più, a Baku contro il Karabakh, anche qui decisivo, oltre a quello di Manolas, il gol del solito Dzeko, che ormai dopo gli affanni, lo ricorderai, della prima stagione a Roma, ormai è diventata una vera e propria garanzia. Oggi Europa League, l'esame per il Milan di Montella che balbetta in campionato, ombre lunghe si addensano su quella panchina, non più solidissima come appena una decina di giorni fa, e allora alle 21.05 a San Siro arrivano i croati del Rijeka, ostacolo non altissimo, l'ideale per ripartire se se ne hanno le idee e la voglia. Alle 19 Lazio in campo contro il Varegem in un olimpico deserto per la squalifica UEFA di un paio d'anni fa, sempre alle 21.05, poi occhio anche alla bella sfida che aspetta l'Atalanta a Lione. L'Everton già l'abbiamo matato, diciamo, parlando da simpatizzante degli atalantini, sarebbe bello anche fare lo sgambetto a quest'altra quasi big europea. Grazie dunque a Dario Ricci per questo aggiornamento sportivo complessivo, poi ovviamente di calcio non solo, si tornerà a parlare alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia subito dopo il traffico e iniziamo dalla ATAC. Ieri c'è stato il via libera al concordato preventivo, domani ci sarà uno sciopero di 4 ore, ne parleremo con l'assessore ai trasporti di Roma Linda Meleo, a tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e anche la diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 su quella di Effetto Giorno. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della richiesta di rinvio a giudizio per Virginia Raggi e la richiesta di archiviazione invece per il reato di abuso d'ufficio della legge sui piccoli comuni, che ha ricevuto il via libera di Fincantieri, di due inchieste, di un'inchiesta che riguarda la centrale Enel di Brindisi e di un'altra inchiesta che riguarda uno stabilimento Marlane di Praia a Mare di Seregno e dell'inchiesta sull'Andrangheta, oltre che, come avete sentito, di Catalogna e di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e fatemi iniziare però, prima ancora parlando di ATAC, parlando di una notizia appena battuta dalle agenzie. Ebbene, ieri vi abbiamo raccontato come la procura di Perugia abbia chiesto l'archiviazione per Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo, dall'accusa di associazione a delinquere, e vi abbiamo specificato come già in secondo grado di giudizio fossero cadute le accuse di corruzione e falso per lo stesso Ottaviano Del Turco, e rimanga adesso in piedi solamente, seppur fragilmente, l'accusa di induzione indebita. Ebbene, notizia di questi minuti è che in corte d'appello a Milano è stata confermata la sentenza di primo grado per il cosiddetto sistema sesto, ossia sono stati tutti assolti, compreso Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano ed ex capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani. La riflessione molto breve è che a un certo punto dovremo interrogarci su come trattiamo tutte queste vicende e su come spingiamo spesso per delle tesi che sono ovviamente e giustamente delle legittime tesi delle procure, e a volte diamo troppo poco spazio a quella che è la difesa effettivamente. La vicenda di Ottaviano Del Turco, la vicenda di Penati ce lo insegnano, e ce lo insegna anche, se vogliamo, e lo dico all'ascoltatore che si lamenta sul fatto che abbiamo aperto Effetto Giorno parlando della sindaca di Roma, ce lo insegna, lo guarderemo e lo guardiamo con attenzione anche parlando della vicenda di Virginia Raggi. Iniziamo da Roma dunque, però non per parlare delle vicende giudiziarie, ma di ATAC. ATAC, appunto, ieri è partito, c'è stato il via libera al concordato preventivo, domani è previsto uno sciopero di 4 ore e nel frattempo vogliamo anche un po' capire dove si andrà a parare per questa azienda di trasporto pubblico che ha, come sappiamo, un buco di bilancio enorme. Siamo in linea con Linda Meleo, assessore alla città in movimento di Roma, che torna da noi. Meleo, bentornata, salve, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, l'azienda ha 60 giorni per presentare il piano e la proposta di concordato, la prossima deadline è fissata al 27 novembre e poi la parola passerà ai creditori. La cosa che subito le voglio chiedere riguarda esattamente i creditori. Poi verremo ai crediti che vantate voi come comune nei confronti dell'ATAC, perché se non erro ammontano a 450 milioni di euro, che non sono esattamente spicci, ma dall'altra parte ci sono dei fornitori di ATAC che stanno iniziando a tirarsi indietro e questo potrebbe ridurre ulteriormente l'operatività dell'azienda. La preoccupa questo? Guardi, innanzitutto esprimo una piena soddisfazione per questo via libera dato dal Tribunale di Roma alla domanda di concordato di ATAC. È chiaro che questi 60 giorni che abbiamo davanti, come sapete tutti, eventualmente prorogabili di altre 60, qualora il giudice decidesse in questo senso, sono dei giorni molto molto importanti. So l'azienda sta già lavorando, quindi ha pieno contatto anche con l'advisor finanziario ed economico che si occuperà della redazione del piano industriale, quindi è chiaro che le interlocuzioni con i creditori sono cominciate, ci sono una serie di contatti e questo, diciamo, è un momento critico perché evidentemente l'azienda sta lavorando per cercare di informare correttamente tutti i creditori, perché sappiamo che anche la platea di creditori di ATAC. Faccio un esempio, se mi consente, giusto per far capire agli ascoltatori, sia romani che non romani, che cosa sta succedendo. Nei giorni scorsi, per esempio, la MIB Security and Service ha detto: a fine mese, a causa dei mancati pagamenti, saremo costretti a sospendere i servizi di sicurezza delle unità cinofile, appunto, a Roma. Ci sono problemi, a quanto pare, per quanto riguarda anche le società che gestiscono tecnicamente, no, la parte che riguarda i biglietti, l'emissione dei biglietti. E quindi, e le macchine che mettono i biglietti. Le macchinette che mettono i biglietti, no? Quindi da questo punto di vista potrebbe, come si diceva, andarci di mezzo l'operatività già piuttosto problematica dell'ATAC, ci consenta di dirlo. Assolutamente, guardi, però io facevo riferimento proprio a queste vicende. L'azienda sta in contatto evidentemente anche con questi fornitori, è chiaro che loro adesso il canale di interlocuzione deve essere tale da spiegare quale sarà il programma dal 18 settembre, che è il giorno in cui è stato poi presentata la domanda di concordato in poi, perché io ricordo che sono fermi in attesa del piano di rientro tutti i crediti che i fornitori vantano nei confronti di ATAC maturati prima del 18 settembre, ma quelli maturati dopo il 18 chiaramente fanno parte della gestione ordinaria, quindi si sta lavorando sia per evidenziare lo scadenzamento dei crediti maturati dopo questa data limite e ovviamente anche nei limiti delle procedure si sta cominciando a lavorare anche su come trattare questo debito pregresso, che poi è l'oggetto del concordato, vero? No? Sì, esatto, che è l'oggetto del concordato, con il rischio, Meleo, mi sembra di capire, che per una serie di aziende che spesso in questi casi, soprattutto quando si guarda un colosso come ATAC in termini di dimensioni e non solo di debito, aziende che magari facciano molto conto sull'ATAC, che rischiano di trovarsi in problemi seri dal punto di vista finanziario. Guardi, io credo che questi piani di rientro, per quanto evidentemente prevedranno un abbattimento della percentuale del credito che i fornitori vantano nei confronti dell'azienda, siano però dei piani che danno certezza ai fornitori, e certezza che è venuta a mancare non soltanto negli ultimi 5, ma negli ultimi 10-15 anni. Quindi un piano che sia serio, che sia scadenzato, che sia abbia anche il benestare del tribunale, è un piano che dà certezza. Sì, comunque sappiamo, l'attività imprenditoriale molto brevemente, sì, molto brevemente, perché poi so che ci deve lasciare. Quindi è sicuro sostanzialmente che questi creditori i soldi non li riavranno tutti, no? Quello fa parte del concordato, però ripeto, c'è il grande vantaggio di avere delle risorse certe e in tempi certi, cosa che prima l'ATAC non poteva assolutamente assicurare. Per quanto riguarda invece, Meleo, i crediti vostri, quelli del comune, sono 450 milioni di euro i crediti che voi avete nei confronti di ATAC. e la parte del bilancio, quindi il mio collega, l'assessore al bilancio e gli uffici stanno evidentemente lavorando anche su questo. La legge fallimentare prevede che per i crediti nei confronti del socio ci sia una postergazione automatica, quindi è evidente che questa sarà la linea da seguire. Poi le modalità, tempi e procedure le vedremo insomma con l'azienda, ma anche con la parte dell'assessorato al bilancio. Sì, questo ho capito che non è la sua competenza, però può creare dei problemi ai conti di Roma, no? Guardate, chiaramente le valutazioni sono state fatte anche tenendo in considerazione questo aspetto, quindi il bilancio verrà lavorato anche tenendo in considerazione tutto quello che uscirà nei confronti di Roma Capitale rispetto al caso ATAC, quindi la situazione, diciamo, è che siamo tutti pienamente coscienti e si sta lavorando anche in questa prospettiva. La ringrazio, grazie Linda Medeo, assessore alla città in movimento di Roma, questa la qualifica appunto di Linda Medeo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e ricominceremo con una piccola storia che arriva da Pantelleria. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli a partire dall'assoluzione di Filippo Penati e di tutti i cosiddetti protagonisti di quello che veniva chiamato il sistema Sesto, assolti anche in appello. L'ex presidente della provincia di Milano dice: mi sono ripreso la mia vita. A Roma chiesto il rinvio a giudizio per Virginia Raggi per falso e l'archiviazione però per l'abuso d'ufficio. Soddisfazione dalla stessa sindaca e dal leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, il quale dice: è caduta l'accusa più grave. I piccoli comuni, è arrivato il via libera alla legge, fondi e servizi per evitare lo spopolamento. Sereno, dopo l'inchiesta sull''Ndrangheta si sono dimessi i consiglieri leghisti ed è caduta la giunta. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. È una questione questa della quale in passato ci siamo già occupati. Il tema sono le isole, quelle più piccole, quelle un po' più distanti dalla terraferma, dal territorio, appunto dal continente per così dire, o in questo caso da un'altra isola ma più grande come la Sicilia. E il fatto che mantenere alcuni presidi medici in queste isole, spesso piccole, difficili da raggiungere, sia piuttosto complicato. Nella fattispecie andiamo a Pantelleria dove si cercava un pediatra ma nessuno ha risposto al bando. Ora io so già che c'è qualcuno di voi che sta pensando: beh, insomma, qualche anno a Pantelleria, insomma, non è proprio un brutto posto dove lavorare. Siamo in linea con Giovanni Bavetta, che è il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Bavetta, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno al radioascoltatore. State cercando degli stranieri a questo punto? Stiamo cercando chiunque abbia la professionalità necessaria per garantire un'emergenza che comunque nell'isola di Pantelleria, per l'area di emergenza generale e del punto nascita in particolare, è comunque garantita. Cioè, noi abbiamo dei medici che a turno dalla terraferma, anche se è sempre un'isola, la Sicilia, noi mandiamo dei professionisti che garantiscono tutte le urgenze, abbiamo un pronto soccorso multidisciplinare, cioè noi abbiamo una realtà che garantisce comunque la sicurezza degli abitanti di Pantelleria, ecco. E non solamente degli abitanti, ma anche dei molti turisti che poi la frequentano durante l'estate e non solo durante l'estate. Ascolti, quindi c'è un sistema di turnazione di medici che prendete, immagino, da Trapani e che spedite là a Pantelleria per periodi di tempo che quanto durano? Allora, abbiamo dei turni che sono diversi dalle specialità, cioè abbiamo intanto dei professionisti che più o meno fanno parte dell'organico di quest'area di emergenza multidisciplinare, cioè il pronto soccorso un po' con il cardiologo, il chirurgo, eccetera. Abbiamo invece delle criticità per mantenere, perché abbiamo avuto una deroga da parte del Ministero della Salute per mantenere il punto nascita, anche se il numero è esiguo, ma lì è necessario avere comunque un'area che possa garantire l'evento parto in urgenza E se troviamo le professionalità giuste, noi potremmo anche allargare questo protocollo a dei parti che sono comunque sempre a basso rischio, ecco, per non creare disagio agli utenti. Certamente. Abbiamo comunque non solo l'urgenza, ma noi abbiamo anche pianificato e programmato una serie di professionisti che anche per abbracciare le problematiche dei malati cronici, noi periodicamente mandiamo dei cardiologi, dei radiologi, cioè tutti gli specialisti ortopedici che servono per le esigenze dei cittadini di Pantelleria. Il punto è, Bavetta, che i bandi che avete fatto sono andati deserti. Esatto, e soprattutto a tempo indeterminato, cioè al composto fisso. È chiaro che un collega che oggi si specializza, le prospettive di Pantelleria non sono allettanti. Però noi abbiamo comunque un protocollo che garantiamo il mantenimento delle professionalità. Cioè noi, anche il collega che andrà, sarà destinato per il fondo nascita di Pantelleria, daremo l'opportunità di frequentare periodicamente gli altri punti nascita di Trapani, di Marsala, di Castelvetrano, di Mazara. Sì, poi non è nemmeno detto, Bavetta, che uno debba rimanerci tutta la vita a Pantelleria. Magari ci vieni, rispondi al bando, ci stai 3-4 anni e poi fai un bando da qualche altra parte, ti sposti da qualche altra parte e voi ne troverete qualcun altro. Ripeto, insomma, 3-4 anni a Pantelleria mica sono proprio brutti, eh. Ma guardi che d'estate ci sono, se per i colleghi maschi ci sono delle donne stupende. Per le donne ci sono degli uomini interessanti, quindi dico Pantelleria è anche lì. Non la metterei solo su questo piano, diciamo. Mi riferivo più alle spiagge, al mare, alla bellezza. Di offrire, se potessi, anche un partner a chi vuole andare a Pantelleria. Ah, vabbè, perché è un'isola particolarmente bella, affascinante. Ma l'avete messa bene, aria bene, mare favoloso. Ma l'avete messa nel bando questa? Lo metterò nel colloquio quando incontrerò questi colleghi, cercherò di, tra l'altro, io strano della vita, i momenti belli della vita, all'inizio della carriera sono stato anche un ginecologo che ho lavorato a Pantelleria, un bellissimo ricordo di un'estate in carriera. Soprattutto immagino delle donne a questo punto. Senta, Bavetta, un'ultima domanda: quanto viene pagato un pediatra che accetta di venire là, cioè da bando? 90.000 euro lorde. 90.000 euro? Mica un brutto stipendio. Poi vivi a Pantelleria, non so come dire, non è che vivi a Copenaghen, dove la vita costa un filino di più. Vivi a Pantelleria, 90.000 euro è una discreta cifra, niente male, no? Assolutamente, ma io vorrei anche suscitare un sentimento che è quello di un medico che comunque può provare un anno a stare a Pantelleria con questo spirito di servizio, di essere disponibile in un momento così importante, perché guardi che queste branche di pediatria, di neonatologia e più avanti di ortopedia, noi avremo difficoltà. Se non si fa una pianificazione nazionale, cioè di allargare il numero delle scuole di specializzazione per alcune branche, anche anestesia, noi avremo difficoltà a mantenere il livello essenziale di assistenza in futuro, cioè sarà una crisi. Quindi secondo me l'ho voluto anch'io sollecitare un po' di più, per mettere sul tema questo argomento che possa servire a pianificare meglio e a programmare il numero maggiore per alcune branche specialistiche di medici che utilizzeranno le scuole di specializzazione, in questo caso in Italia, ma io ho aperto il bando e anche tutti i prossimi bandi io li aprirò a evidenza europea e perché no internazionale. E perché no internazionale. Sì, allora, da Pantelleria, isola nella quale i pediatri e le pediatre possono trovare l'amore, grazie a Giovanni Bavetta, commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. In bocca al lupo per la vostra ricerca, buona giornata, grazie, buon lavoro. Copierò questo suo slogan, grazie ancora. Vabbè, resta che, insomma, io se avessi una laurea in medicina, pensierino, e la specializzazione in pediatria, un pensierino tutto sommato ce la farei. Non per le donne, sono sposato, innamorato, però per Pantelleria in sé. Ci spostiamo. Andiamo, insomma, non proprio in Italia, ci spostiamo in Vaticano. Perché? Perché c'è questa vicenda del gruppo di studiosi, l'avrete letta da qualche parte, che accusa il Papa di eresie. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin, commenta questa lettera dicendo è importante dialogare anche all'interno della Chiesa. Su queste accuse al Papa, Katia Caramelli ha sentito il vaticanista di Repubblica Paolo Rodari. A me sembra che dietro ci sia un po' un gruppo di teologi morali che in qualche modo l'arrivo di Francesco gli ha un po' scombinato i piani. Hanno vissuto per anni anche costruendo le proprie carriere su una certa linea di interpretazione della teologia morale all'interno della Chiesa. Francesco non azzera nulla, però in qualche modo dice: su vari punti delicati della morale sessuale la Chiesa può anche decidere caso per caso, senza per forza ogni volta rifarsi ai principi generali, disincarnandoli dalla vita della gente. Ecco, questa affermazione, questo processo che il Papa ha messo in atto, soprattutto in Amoris Laetitia, è come se gli scombussolasse i piani. La fronda anti-Francesco è così ampia o è soltanto molto visibile e rumorosa? È vero che è molto visibile e anche rumorosa, però probabilmente dietro, credo soprattutto in Italia e in Europa più che in altri posti, c'è in effetti un mondo conservatore abbastanza ampio e variegato a cui il Papa sostanzialmente non piace. E questo dunque Rodari, il Paolo Rodari, il Vaticanista della Repubblica, al microfono di Katia Caramelli. Intanto arriva notizia che per affrontare la sfera proprio della prevenzione e formazione contro gli abusi sessuali di minori, la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare per accompagnare le diocesi su questo campo. L'ha annunciato il segretario generale, Monsignor Nunzio Galantino, a conclusione proprio del consiglio della CEI. Il referente della commissione sarà l'arcivescovo di Ravenna Cervia, Lorenzo Ghizzoni. Tra l'altro vi dico che tra poco America 24 con Mario Platero ci parlerà anche di questo, anche appunto del tema della pedofilia e della Chiesa. Samuele ci scrive: un saldatore non serve a Pantelleria, dai che vado subito. Sì, ma non credo che facciano concorsi per saldatori a Pantelleria, gli serve un pediatra. Se dovesse arrivare, come dire, dalla stessa Pantelleria una richiesta di un saldatore, a Samuele lo faremo sapere senza ombra di dubbio. E altri che ci dicono, me lo diceva mia mamma di studiare. Infine invece all'ascoltatore o ascoltatore, non lo so perché non si è firmato, che dice che ci racconta che per le agitazioni sindacali dei COBAS dipendenti dalla SDA dall'8 settembre a Milano, Bologna eccetera, sono bloccati molti pacchi postali. Tra l'altro qualche giorno fa ci sono stati anche dei veri e propri scontri a Milano, dove è in corso il presidio dei lavoratori. È una vicenda della quale abbiamo intenzione di occuparci e sulla quale torneremo senza ombra di dubbio. Adesso intanto ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, il nostro Mario Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti.